Vibra. Vibra. DJ Mike. Vibra. Vibra. DJ Mike. Bugiardo. Bugiardo. Bugiardo. Bugiardo. Bugiardo. Con questa faccia da bugiardo. Era tutto uno scherzo, sono un bugiardo. La tua ragazza ha capito, sono un bugiardo. Per come parlo, per commentarlo, ho uno stile di vita anti Monte Carlo. Capitan Arlo del rap in ballo. Mi vesto giallo come il castarro. Oh no, adesso ti lamenti per il testo, poi per la base perché sembra un poliziesco. Io sono zero se mi paragoni al resto. Vorrei tuo conto in banca, DJ Francesco. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Brrr, fibra, ha ha ha. Fibra, ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga. Io vengo in pace, bugiardo. Non mento mai, bugiardo. Non sono capace, bugiardo. Non ce la fai, bugiardo. Ho mille amici, bugiardo. Non voglio guai, bugiardo. Tu sei tra questi, bugiardo. Ma non lo sai, bugiardo. Con questa faccia da bugiardo, oh, oh, oh, bugiardo. Con questa faccia da bugiardo, oh, oh, bugiardo. Con questa faccia da bugiardo, oh, oh, bugiardo. Con questa faccia da bugiardo, oh. Io non so perché, ma da quando sono passato in televisione mi telefona molta, ma molta più gente. Anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Molta gente è convinta che lo spettacolo ti cambia un po'. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Ma anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Celebro i circuiti sovraccaricati. Celebro il medium dagli occhi ribaltati. Celebro, celebro ogni pulsante acceso. Celebro il degenere, sono un cerebro leso. Scopano a destra e a sinistra per aprirsi una via. Ti porto a letto ma c'ho già una ragazza mia. Senti il calore che arriva dall'inferno. Sei bella fuori, la merda è all'interno. Io ti ricatto, non paghi lo scatto. La gente non capisce lo schifo che è nato. Metti che parli al telefono è un tratto. Qualcuno si registra ogni cosa che hai fatto. Come ad esempio la mia ragazza che ha detto: amore mi ammazzo se ti porti un'altra a letto. E se potessi cancellare le prove, è troppo tardi, hanno già fatto le foto, ormai le guardi. Anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Molta gente è convinta che lo spettacolo ti cambia un po'. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi. Ma anche se sei in tele, questa vita non è uno show. Non dirmi che non lo sapevi, sapevi, sapevi, sapevi, sapevi. Una vita di merda e mi chiedete che sia.